componimento XIX del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Son animali al mondo de sì altera vista, che incontra al sol pur si difende. Altri, però, che il gran lume gli offende, non escon fuor se non verso la sera. Ed altri, col desio folle che spera gioir forse nel foco, perché splende, provan l'altra vertù, quella che incende. Lasso, e il mio loco è in quest'ultima schera. Chi non son forte ad aspettar la luce di questa donna, e non so fare schermi di luoghi tenebrosi o d'ore tarde. Però con gli occhi lagrimosi e infermi, mio destino a vederla mi conduce, e so ben chi vo dietro a quel che m'arde. Fine del componimento.